Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Ma questa era la sigla di Bosco, Giuliona? Ma mi pare sì, ho sentito delle voci molto lugubri ma al contempo sensuali, sì, ma non lo so, io chiedo conferma. Mi sa di sì, mi sa che è tornato Bosco su Radio Città Fucico, Giuliona. Ma quindi tu sei Lona e io sono Giuliona? Ebbene sì! Ma che bellezza, vi pensa, cioè ci pensavate disperse in una radura, senza luce, senza speranza, ma in realtà col nuovo anno... noi abbiamo deciso di ritornare sulle nostre, le vostre frequenze preferite, ma soprattutto di farlo con un cachet di almeno 5K. Ebbene sì, perché questa nostra puntata sarà incentrata su una risposta tutta bosconiana una nota playlist che è stata trasmessa la notte di Capodanno in quel di Bologna per 5.000 euro. Noi non abbiamo preso 5.000 euro, già tanto se ci siamo pigliati un caffè offerto da qualcuno, ma volevamo appunto renderci partecipi di questa cosa, perché hanno escluso di fatto Bosco da questa cosa e io non capisco. Però noi direi che iniziamo subito. E sì. Con cosa iniziamo, Giuliona? Dato che nessun senso di colpa non è importante per me, dopo le feste inizierei con Gennaio di Diaframma. Soldi li spesi in assoluta allegria, quella stessa con cui li avevo guadagnati. Ci voleva del fegato per ammettere che come erano entrati così erano usciti. We'll be right back. senso di colpa non è importante per me. Ma tu non stare in pensiero, è solo un finto cuore. Nessun senso di colpa non è importante per me. Tu non stare in pensiero, è solo un finto cuore. E con Gennaio dei Diaframma noi abbiamo deciso di iniziare questa nuova stagione di Bosco e oggi 9 gennaio, martedì 9 gennaio, in questo nuovo orario pomeridiano che finalmente siamo riusciti a sperimentare dopo tutto questo tempo, vero Giuliona? Ti hanno azzardato una rinomina, un nuovo nome per Bosco, che è Bosco Nun, ma ci fa francamente... cacare! Sì, però diciamo benissimo quello che è l'atteggiamento pomeridiano di una bella gita fuori porta. Mm-hmm. Esatto, sì, noi cerchiamo di rilasciare il vostro abbiocco post pranzo, congedarvi verso un riposino pomeridiano e non so che cosa ho appena detto, ma nella mia testa aveva assolutamente senso, ma come gli ascoltatori di Bosco ben sanno e come tu ben sai, io non sono esattamente una persona che... riesce a mettere le parole con significati, diciamo, che si assecondano l'una vicino all'altra, sempre a mischiare io, insomma. Vabbè, comunque. Ilona, perché in politica ci sono solo queste persone, quindi noi italiani siamo abituati, non ti preoccupare. Quindi dici che io ho una carriera in politica? Assolutamente sì. Ah, allora mi sa che ho sbagliato lavoro. Musica e prendere compensi pantagruelici, grande ritorno. Eschi e Meniriani, figuriamoci poi tu, cioè nel senso diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Bini. Comunque noi abbiamo iniziato con Gennaio dei Diaframma che tra l'altro suoneranno il 12 gennaio come ormai è tradizione per l'anniversario di Siberia, che ormai cioè, vabbè, suona soltanto Federico Fiumani. Siberia, no? Eh? Ogni giorno è l'anniversario, ogni giorno di gennaio è l'anniversario di Siberia. Beh sì, questo sì, però loro se non sbaglio hanno ormai questa data fissa al Locomotive comunque, cioè nel senso ogni anno io vedo che suonano al Locomotive intorno al 13-12 gennaio, capito? Quest'anno hanno... L'hanno riservata solo per loro, è una delle poche certezze che Bologna può contare. È vero, sì, è vero. Quindi se volete ascoltare Federico Fiumani che imita Miro Sassolini, praticamente potete andare il 12 gennaio al Locomotive. Detto questo, noi appunto introduciamo la nostra puntata che si chiama 5K di Bentornato, perché appunto vogliamo dare una risposta a quella che è stata, diciamo, la playlist più pagata del secolo, non lo so del secolo, ma sì, secondo me, dato che la paga tra l'altro, insomma, i soldi che ha ricevuto questo artista sono pubblici, io azzarderei anche più pagata, perché il comune di Bologna, insomma, ne ha sborsati i soldi per avere una playlist su Spotify e nemmeno J7, ma noi che siamo bravissimi nello sport di lanciatori di polemiche, vogliamo rispondere però in maniera scanzonata e dozzinale a tutto questo, come è solito fare Bosco, che è un programma di intrattenimento musicale che finge di essere un programma serio, no? Esattamente sì. E proprio perché finge di essere un programma serio, ci sentiamo un po' delle macchiette, un po' dei personaggi di un fumetto, Ilona, Giuliona, soprattutto un fumetto un po' pornografico da erotomani, dato appunto la crasi tra il tuo nome e il mio cognome. Pertanto, a proposito di fumetto, vogliamo lanciare il prossimo pezzo, che è un pezzo che ci ha accompagnato per tutto il 2017. Abbiamo riservato e dedicato un'intera puntata di Bosco alle nuove uscite dei Gorillaz del 2017 e mi ricordo ancora che il caro e buon vecchio Andrea Gozza lo mise al Record Store Day ed è tra Ascension o come si pronuncia dei Gorillaz. Buon ascolto. To the tomb of Jehovah, play my tunes loud enough to shake the room. What's that hold up? Heard the world is ending soon. I assume that they told you they trying to dinosaur us. So now it's time to go up. The The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The roof is on fire, she went like Barbra Streisand. Police everywhere, it's like a nigga killed a white man. I just wanna find a baby mama for the night in. So don't be coming round, Vince, on that veteran shit. On the 911 shit, need a Mrs. Brown as Missy, I can have some fun with. Them slave bones make Greg Jones. Don't stop, bitch, they focus. They hated on them since days of Moses. Let my people go crazy. Them stars falling, don't chase them. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. Attack on the right, it's on the line. Tapping it fast and slipping my mind. Drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. All these liberated women sitting in my lap. I'm finna catch your body like I got a gun in bed. I'm finna turn to my partner for we dash. Pull up to the pad, wipe my ass with the flag. I'm just playing, baby, this the land of the free. Where you can get a Glock and a gram for the cheap. Where you can live your dreams long as you don't look like me. Be a puppet on a string hanging from a fucking tree. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, falling, baby, falling. E Giuliona, ma che pezzone è? Ma che pezzone è questo? Ma ne vogliamo parlare un attimo? Assolutamente, io sono assolutamente convinta, assolutamente, ma proprio assolutamente. Assolutamente? Assolutamente, doveva assolutamente far parte della playlist tanto decantata dell'arcinoto artista, perché secondo me è un pezzo che fa alzare il culo sicuramente. Assolutamente. Sì, assolutamente. No, sì, anche a me piace molto. Tra l'altro i Gorillaz giusto l'anno scorso sono tornati con un disco che è assolutamente fantastico, che noi tra l'altro abbiamo passato, a cui abbiamo dedicato anche una puntata, perché Bosco è sempre sul pezzo, signori miei, sempre sul pezzo, però dovrebbe bere un pochettino più di caffè perché a me sta già salendo la biocco e sono le... Comunque, diciamo, è un orario post pranzo in cui non dovrebbe salire la biocco perché qualcuno dovrebbe anche studiare, magari, no? Ma sì, ma dovrebbe anche fare le proprie faccende domestiche, andare al lavoro, insomma, condurre una vita sana ed equilibrata e soprattutto non ascoltare questo programma. Capisco tutto. Ma a proposito, come ben sapete, Bosco è un po' un cacciatore di teste, nel senso che da due teste come le nostre non potrebbe che uscire un ascolto fresco e contemporaneo. E da sviolinarmela, il prossimo artista che abbiamo deciso di proporvi, proprio per iniziare così senza troppi personalismi, ma tutto incentrato sulla musica, ecco, è un artista da tenere d'occhio per il 2018, perché il 2017 per l'appunto si è concluso, anche se sono sicura che sulle date da compilare, sui documenti da compilare inserirete ancora la data del 2017 come tutti, perché ci si è... Poi farete quegli sgorbi per far diventare un 7 un 8? Esatto, verso marzo-aprile riusciremo a scrivere esattamente la nostra data corrente. Che è un artista da tenere d'occhio, è un artista giovanissimo e soprattutto un giovanissimo all'interno di una lineup, quella del Coachella, che per non so, indie gypsy, berindie indie di tutto il mondo è un appuntamento imperdibile, soprattutto per i figli di Bill Gates, perché è bellissimo. Comunque King Krull è stato inserito all'interno della lineup del Coachella e King Krull è un artista che mi ha accompagnato personalmente addirittura d'arrivo di quest'ultimo anno e soprattutto ci dà un consiglio molto molto importante, Ilaria, un consiglio che ogni persona di noi dovrebbe, insomma, ognuno di noi dovrebbe prendere alla lettera, ovvero di prenderla con calma, in maniera molto facile, easy easy easy easy. Quindi direi che ce l'andiamo a ascoltare, Easy Easy di King Krull. Thank you. sei mo Bobby, sei mo P. Oui, elle est qu'on a fait l'homme. Same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. And easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. Well, they just waiting for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead, dead job has been eating away your life. You feel a little inside, but trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. I think, maybe, I think you got in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone. I should have kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco's stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head out of my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy. So easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Easy Easy, King Cruel, questa nostra playlist tra l'altro ha tante tendenze, direi, ma lui è inglese se non sbaglio, no? Guarda, non lo so, so solo che è un redhead molto carino e simpatico, sicuramente mi c'ha un po' un accentino. Guarda, te lo dico subito, cerco subito. Sto cercando pure io, perché noi ovviamente siamo sempre sul pezzo e quindi pseudonimo di Archie Ivan Marshall, Londra, 24 agosto 1994, non poteva essere più inglese di così e sembra appena uscito dalla famiglia Weasley. Detto questo, praticamente sì, lui è King Cruel, è un ragazzetto tra l'altro, cioè nel senso non è che... non aspettatevi qualcosa di qualcuno di molto studiato, non mi viene la parola, volevo dire qualcuno di con grandissima esperienza, perché comunque è un ragazzetto questo qua, porco cane. C'ha un anno meno di me. Però ha delle influenze, la sua musica che mi piacciono parecchio, è molto cupa, molto metallica, mi piace, è musica anche un po' d'ambiente, mi fa sentire una protagonista di Skins. E dato che... è vero. Scusate la tosse, comunque dato che è stato uno dei, insomma, capisaldi della mia adolescenza, io sono molto, molto adesso, oggi. Ti senti molto una protagonista di Skins? Sì. Ok, beh sì, effettivamente c'hai un po' una tendenza ad essere un po' scapestrata con i protagonisti di Skins, cioè, mi hanno sempre cercato di convincere a guardarlo, devo essere sincera. Ma guarda, ti posso anche dire una cosa se vuoi, che con il prossimo pezzo, secondo me, si va a sublimare l'idea di Skins adolescenziale. Certo, ma voglio solo lanciarlo e per preparare i nostri ascoltatori a catapultarsi, insomma, in una dimensione fatta tutta di tequila e drammi esistenziali. Che è appunto quella del prossimo brano che noi stiamo andando ad ascoltare, che tra l'altro artisti che a me piacciono tantissimo, sono gli XX, il brano è Crystallize. Tu cosa ne pensi, Giuliana? Io penso che gli XX o XX, detta la Marina dei Noantre, non mi piacciono proprio, ma questo brano è molto, molto. Non ti piace? A me invece sì. Non fa niente, ma il mondo è bello perché è vario e anche avariato. Quindi, insomma, non. Io sono molto, molto felice di mandarlo in diretta. Per me è un Tra privilegio. l'altro l'hai scelto tu, perché dovete sapere che noi di solito ci dividiamo le puntate, no? Ci dividiamo i brani delle puntate in base all'argomento. Questo brano l'ha scelto lei. Quindi cioè, siamo arrivati a questo punto in cui tu scegli i brani per me e io scelgo i brani per te, Giuliona. C'è questa intesa addirittura. C'è questa intesa addirittura, ma soprattutto io sono una persona generosa, i miei ascolti sono generosi, ma a parte gli scherzi, gli Gli scherzi. XX fanno parte di quella scena giovane, fresca e innovativa che sta popolando il mondo della musica di questi ultimi tempi e quindi ti può piacere o non piacere, ma come diciamo sempre noi, per accontentare i nostri gusti è difficile, ma siamo ancora buoni e si spera a capire, insomma, cioè, cosa è valido e cosa non è valido. Per me questa canzone è un'ottima canzone da chilling, un po' appunto disperato, da crisi esistenziale, un po' languida. Potrebbe essere una perfetta canzone per concludere e coronare una notte de fuego di Capodanno. E con questo, Ma altrimenti non ci mandano più in diretta. io non ho, Giuliana, io stavo cercando, per cambiare un attimino argomento, io stavo cercando la playlist del Quacella. Io quale devo guardare? Quella dove, cioè, io ne ho una, però. Vai sulla pagina Facebook del Coachella. Parte che mi sa che c'è più di un Quacella, giusto? Esatto, perché come l'anno scorso si va a, come si dice, presentare la medesima line-up in 2 giorni differenti che cadono appunto a una settimana di distanza Allora, per mettere. bene, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Allora, praticamente, perché io mi ricordavo questa cosa, ma continuavo a leggere Depeche Mode e quindi non mi tornava moltissimo la situazione, se devo essere sincera. Allora, vabbè, per quanto riguarda appunto il Coachella, praticamente la prima giornata ha come, diciamo, personaggio principale, protagonista The Weeknd, che a me piace molto, devo essere sincera, è un personaggio che mi sta piacendo veramente tanto. Stranamente The Weeknd è più importante di Jamiroquai, però vabbè, fa niente, ormai abbiamo capito come va la solfa. E poi ci sono tantissimi altri artisti che non vi sto ad elencare, potete andare tranquilli. Cioè, Benjamin Clementon è scritto praticamente in un carattere illeggibile, ma la gente non ha capito un cazzo, secondo me, scusatemi. Però vabbè, questo fa niente. Poi c'è la seconda giornata abbiamo Beyoncé, ovviamente, che ormai è fissa al Coachella perché c'era pure l'anno scorso, se non sbaglio. Apre sempre la seconda puntata, la seconda giornata, tra l'altro. E poi altri personaggi, abbiamo gli Argei, David Byrne, poi vabbè, leggo un sacco di gente, vabbè, e Budo Budo, però vabbè, potete appunto andare a vedere. E basta, niente, questo è quanto. Poi invece la terza giornata avrà come, diciamo, personaggio personale Eminem. Ci saranno tra l'altro i King Krul, cioè ci sarà King Krul che abbiamo appena ascoltato. E purtroppo in questa lineup di solito sono quasi sempre presenti appunto gli XX che noi ci stiamo per andare ad ascoltare con Crystallize. Tell me, crystallize, and you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? I've gotten closer to the sun, and I've done this in small doses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Hi, hi, hi. Steps in my direction, the sun sounds echoing. to trust him with her nightmare, with her dreams. She's running, she's running, just to trust. Questa era Run for Cover dei Killers. Siamo tornati dalla pubblicità, la mitica pubblica che non sentivamo da una vita e sinceramente non ci mancava, ma fa niente. Come sei polemica? Perché lanci queste polemiche, Ilaria? Cosa perché io sono contro la pubblicità, anche se metà della pubblicità di Radio Città Fujiko l'ho fatta io. No, scherzo. Vabbè, a parte questa big parentesi sulla pubblicità di cui ci sarebbe da fare un'intera tesi a riguardo, noi abbiamo appena ascoltato Run for Cover dei Killers. Perché? Perché io sono una fan sfegatata e quindi grandissimi cazzi, io la metto in playlist, ma soprattutto perché i Killers hanno deciso di tornare in Italia, cara Giuliona. Ebbene sì, perché suoneranno il 20 giugno al Rock in Roma e avranno un concerto tutto loro, grazie a Dio, e poi invece a Milano nell'area Expo nei VIP High Days Party, negli High Days insomma, perché stavo leggendo i biglietti, perché c'è il VIP High Days Party, non so che cosa comprenda, ma so solo che costa 320 euro il biglietto per poterci andare, mentre il biglietto normalissimo da persone povere per vedere i Killers è lì a Gallagher, signore e signori, ci costa su una sessantina di euro. Quindi se volete andare all'area Expo e non fare la fila alla parte del Giappone come fu per l'Expo, perché mi hanno detto che tu andavi per fare la fila per il Giappone e praticamente facevi prima di andare in Giappone a piedi per poter entrare là dentro, se non volete andare lì, vedere com'è l'area Expo adesso e magari godervi un concerto dei Killers e di Liam Gallagher, sappiate che giovedì 21 giugno potrete andare ad ascoltare i Killers. Se invece siete poveri come me e vi piacciono le cose scapestrate, ci vediamo tutti a Rock in Roma il giorno prima. Mamma mia, ma che bravo, ora capisco perché ti fanno fare le pubblicità. Ebbene sì, infatti. E comunque niente, praticamente Run for Cover è tratto dal nuovo album dei Killers, è penso il secondo singolo estratto, sì. Prima c'è stato The Man, il nuovo album The Killer si chiama Wonderful Wonderful ed è come al solito un trionfo, è proprio Wonderful Wonderful, è un... Anche questo secondo me è un grande intelligente ma non si applica, ma secondo me quasi tutti i dischi dei Killers dopo Hot Fuzz sono tanto degli intelligente ma non si applica, anche se comunque rimane un... una qualità che a me piace tantissimo, cioè io sono una loro fan, sono contentissima di questa cosa. Ma per tornare sul nostro pezzo, cara la mia Giuliona, ora che ti ho fatto un pippone così sui Killers, passiamo al prossimo artista. Qual è il prossimo artista, Giuliona? Parlavamo di Skins, parlavamo di adolescenza e parliamo anche del primo concerto che Giuliona ha sopportato, diciamo, il supportato nella sua vita. Si tratta degli Arctic Monkeys. Allora, c'è da fare un grandissimo discorso sugli Arctic Monkeys. Li ho riscoperti recentemente perché ho cambiato casa. Ho una piccolina britannica ne abbiamo parlato a lungo ed effettivamente è innegabile che abbiano si siano in un certo qual modo infiltrati nello scenario musicale e quindi siano stati pervasivi per quanto riguarda l'immaginario dei millennials e della nostra generazione. Io sono Piccina Picciò. Sentite questo vocione nasale inascoltabile, ma io sono una persona che non si arrende a queste piccolezze, ma in realtà sono Piccina Picciò e sono cresciuta a Pane Arctic Monkeys. Insomma, so che sono in lavoro appunto in studio per il nuovo album. Esatto. So cosa possa venirne fuori. Io sono molto affezionata ai primi album molto domestici, diciamo, molto casalinghi, e anche alla figura del frontman Alex Turner, senza brillantina e sono anni 70, lo preferivo con l'acne e molto acqua e sapone. Ma comunque speriamo che esca fuori un album degno di nota. Noi ci andiamo ad ascoltare Do I Wanna Know, che è il, mi pare, se non erro, il primo singolo estratto dallo scorso album che è uscito nel 2013, che è AM, Arctic Monkeys, ovvero sigla che sta a significare il loro nome. È un brano molto sensuale, molto skins, molto languido, molto party a Bologna con studenti del DAMS. Infatti chi l'ha messo? Una studente del DAMS, ovviamente, figuriamoci, però io l'ho messo perché effettivamente se io ripenso alle mie serate in cui ballo come una dannata ci sono quasi sempre gli Arctic Monkeys, anche se comunque non sono brani molto lenti, capito? E però allo stesso tempo ti prendono e ti danno una carica allucinante e li canti e balli. Ci andiamo ad ascoltare appunto Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of you. Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I'm calling through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Crawling back to you. Never thought I'd call and when. Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys è un pezzo della Madonna. Ha una sezione ritmica che è spettacolare. E davvero, io mi sono rotta le palle di dover rispondere alle persone: ah, ma non sono più quelli di una volta. E meno male, meno male. I tempi cambiano e la gente si rivoluziona. L'importante è capire la percentuale di fedeltà a se stessi. Secondo me loro fanno sempre qualcosa che nel panorama musicale non c'è, oppure viene copiato dagli Strokes, dipende un po' dai punti di vista. Che tra l'altro sono in playlist, li ascolterete nella nostra ultima mezz'ora. E tra l'altro gli Arctic Monkeys sono nati come cover band degli Strokes, non so se lo sapevate. Loro andavano nei peggiori bar di Londra. Hai fatto... Allora, perché dovete sapere che in tutto ciò io e lei siamo in videochiamata, nel senso... Io ti vedo e ho visto la faccia che hai fatto, hai proprio tirato indietro, c'è stato un momento senza collo alla Maurizio Costanzo, hai fatto... Oddio, la tosse. Scusatemi, ma sono un po' acciaccata. Niente, loro iniziano come cover band degli Strokes nei peggiori bar di Londra, dei ragazzini dalla pelle butterata, un po' acneica, il testosterone alle stelle e il capello piuttosto grasso, si mettono lì, schitarrano, e non scatarrano, mi raccomando. Iniziano a suonare gli Strokes, iniziano a suonare le loro canzoni, tra cui A Bachelor Girl on the Dance Floor, che diventa una hit per i sobborghi londinesi. Loro non avevano nessuna copia fisica, producono 500 EP, dice la leggenda, che vanno a ruba in una sola notte. Così sono nati gli Arctic Monkeys. Non ti piacciono gli Arctic Monkeys, Giulia? Ma proprio per me. Piacciono quando ero piccina. Ma sei piccina anche adesso, non ti preoccupare, possono ancora piacerti. Comunque, siccome io ovviamente devo smorzare questo clima da Piero Angela un po' becero, perché di fatto è quello che cerchiamo di fare qui, il mio clima da Piero Angela un po' becero mi ha fatto... Perché? Allora, partiamo dal presupposto che noi abbiamo appunto creato questa playlist in risposta a un'altra playlist, ok, il cui nome tra l'altro oggi l'ho letto su Spotify, è proprio una presa per il culo per tutti, perché se è quella che ho trovato ed è quella giusta, se non sbaglio, è ho fatto una playlist in centro a Bologna ma era solo per 5K. Questo è il titolo della playlist, se è quella per creata da Bombadischi, quindi suppongo che sia quella ufficiale. Con sotto la descrizione sonorizzazione, attenzione, sonorizzazione creata da il maestro dei maestri Calcutta per il Capodanno di Bologna 2017-2018, verrà filodiffusa per le vie del centro della città dalle 23.30 del 31 dicembre alle 00.30 del 1 gennaio 2018. Bene, ora io a uno che mi fa questo titolo per la playlist che mi percula, in più gli ho dato 5.000 euro, sinceramente non so, cioè ci sono due cose per cui non non so per cosa incazzarmi in questo momento: il prezzo dei sacchetti di plastica o la playlist di Calcutta. Secondo voi io cosa scelgo? Ovviamente la playlist di Calcutta, perché i sacchetti sono davvero un abboccare per i populisti Facebook. Madonna, davvero, no, a parte lasciamo perdere l'argomento sacchetti di plastica, perché a parte il fatto che io ormai sono la classica persona che si porta la busta da casa e si prende la cosa di stoffa, va e si fa, tipo si taglia i gomiti, no, non i gomiti, questi qua che sono, i gomiti, si taglia i gomiti con i bracci, con le maniglie dei sacchetti, quindi figurati, a me non me ne frega proprio niente, poi se c'è da pagare il sacchetto lo pago, ma come tra l'altro si è sempre fatto, signori miei, non volevo dirvelo, mi dispiace, spoiler, non lo sapevate, ma pagavate i sacchetti prima, però vabbè, a parte questa big parentesi, comunque noi ci arrabbiamo per un'altra cosa, che è appunto quella della playlist di Calcutta, e vogliamo dare una risposta concreta e affidabile appunto a questa playlist, e nel momento in cui loro ci propongono Cacao Meravigliao di Renzo Arbore, noi andiamo con altre risposte, e la prima risposta è venuta appunto da Giuliana, che mi dice: bene, noi abbiamo fatto tanto per Yellow Submarine, per levarlo da Revolver, ma dovremmo levare anche un altro brano da un'altra band, che è appunto Just Can't Get Enough dei Depeche Mode. Cosa ne pensiamo di questo brano? Credo che sia il peggior brano di Depeche Mode in assoluto. Soprattutto con quel synth che inizia, che sembra l'intro di un synth. Esatto, l'intro di un jingle di quegli xilofoni giocattolo del Toys Center che ci assurdamente quando eravamo piccoli. Io odio questo brano, ma è giusto che diamo che comunque diamo a Cesare ciò che è di Cesare, quindi vi siete ascoltati per un'ora una playlist a 5K? Noi vi facciamo ascoltare Just Can't Get Enough di Depeche Mode. Buon ascolto. Now I just can't get enough. Now I just can't get enough. Beh, Giulio, però alla fine l'abbiamo. Giulio, alla fine l'abbiamo cantata. Ti è piaciuto, Beh, Giulio, oh! Vabbè, niente. Sì, alla fine, comunque, nonostante il nostro appunto. Allora, col 2018, se nel 2017 volevamo appunto togliere Yellow Submarine da Revolver, quest'anno vogliamo togliere Just Can't Get Enough da Speak and Spell. Speak and Spell? Speak and Spell? Speak and Spell? Dei Depeche Mode, vabbè, fa niente, oggi va così, quest'anno va così, ovviamente a noi non mancano le nostre polemiche. Siamo giunte alla fine di questa nostra prima ora di trasmissione. Giuliana, come ti senti? Come ti senti? Io Emozionata. direi quasi innamorata. Sì, ma di tuo marito. No, sì, no, no, no, no. Allora, facciamo un piccolo come si chiamano i prodromi? Si può dire prodromo oppure siamo in fascia protetta, è una parola troppo alta. No, no, no, siamo in fascia libera, vai tranquillo. Noi abbiamo deciso di iniziare come nostro solito con musica che ci piace e insomma nel nostro filo della narrazione, nel nostro tempo della narrazione, che coincide tra l'altro col tempo della storia ed è un raro caso, abbiamo deciso di collocare proprio nel mezzo, durante quello spazio che viene occupato dalle peripezie dell'eroe e dell'antieroe, qualcosa di profondamente, inequivocabilmente e sfacciatamente trash. Perché? Perché noi vogliamo rispondere a Calcutta e vogliamo dirgli che possiamo fare di meglio, sia sul piano della musica alta, ma anche sul piano del trashume più becero. Quindi la prossima canzone, anzi i prossimi due pezzi che manderemo, intervallati dalla Publi, la nostra amata odiata Publi, sono un pezzo di Cristiano Malgioglio che sta spopolando, amici. Ho già rilasciato le dichiarazioni. Ha fatto un tutto esaurito al concertone di Capodanno, solo lui, e soprattutto direi che la presenza scenica rasenta quella di Lady Gaga. Quindi io fossi in voi. Sai che sono cugini? Ma guarda, lo vedevo dall'estro artistico, assolutamente. No, comunque, a parte gli scherzi, stiamo parlando di Cristiano Malgioglio. E Cristiano Malgioglio, fuor di tutte le prese per il culo, eccetera, eccetera, fuor di meme che sono usciti dal Grande Fratello, non è un artista, secondo me, proprio scemo, se devo essere sincera. Visto che lui ha scritto un brano per Mina che si intitola L'importante è finire, perché è stato censurato. In realtà il titolo originale era L'importante è venire, ma per l'appunto ci troviamo negli anni del bel canto e quindi non si poteva dire una cosa del genere, ma oggi fortunatamente è così ed è un brano meraviglioso. Tuttavia questo non è così, ma noi ve lo facciamo ascoltare lo stesso. E mi sono innamorato? Ma di tuo marito! Ser feliz. E mi sono innamorato. I miei sogni sono lì con la Bernelli. Non morirò sul set come Brandon Lee. Il mio cuore non brucia mai come jeans. Scappo da sorrisi gialli come Kill Bill. Voglio un picnic, fa culo Justin. Timberlake con Bieber, l'importante è che sei Justin. Non guardarmi così, I'm a rich bitch. Ti interrompo la festa come un pezzo di Blitz. Yeah, give me five, perché il mondo è bello. Non capisco se è un casello o un McDrive. Baci, baci, bye, con la tua gang mai. Se mi stai lontano è meglio tu e le tue bad vibe. I miei fratelli fumano come se fosse sport. A te non ti vediamo perché c'è troppo smog. Guarda che noi non giriamo, siamo peace and love. Il flow ti è travolta, baby, come George. Tiriamo forti, ci crediamo a San Siro. Gasso, porifero e reclamo al condominio. Se arrivano le guardie noi giochiamo a nascondino. Sei pronto a prenderle, scegli il classico alternativo. Ho gli occhi addosso come Mona Lisa. Mia mamma conosce tua madre, non sei mia cugina. La pensilina dice che in arrivo e non arriva. Nel mio quartiere non funziona la tua hit estiva. Io non vado a dormire prima delle tre. Poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov'è. E non vengo alla tua festa, no, non è un granché. Tanto non mi fanno entrare, ho la ragazza nerd. Io con la tua gang, nah, non foto. Non distrarmi, sto guardando il vuoto. Scendi alla prossima, no, quella dopo. Più sugo, più sugo, più sugo. Ho un amico, suo manubrio. Sta chiuso in casa, il caso è chiuso. In questa foto sei un intruso. Ciao bella, io ti conosco, tu fumi cannella. Mandala, mandala, manda Mandela. Cinque in condotte, brucio la pagella. Happy day. Faccio comunella solo con i miei. Mi disp, non ti risp, stai sul display. Tienimi il volante e sparo a questi fake. Non fare mai sentire le tue chicche, no. Non cambiare mai, mai per due feedback, no. Ti mando a casa poi diventi triste, Tu mi mandi a casa solamente pizza, Il disco esce a giorni e non ho scritto un Spacchi solo quando te ne sbatti il Ok, lo devo mettere, mi sei su Come chi applaude all'atterraggio. Io non vado a dormire prima delle tre. Poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov'è. E non vengo alla tua festa, no, non è un granché. Tanto non mi fanno entrare, ho la ragazza nerd. Happy day. Happy day. Happy day. Happy day. Ancora, ancora, ancora, ancora. Ancora, ancora, ancora, Giuliana, ancora. Sì, mi disp, ma non ti risp. Allora, Giuliana non è molto d'accordo con questa mia scelta per iniziare la nostra seconda ora di Bosco per questo pomeriggio di 9 gennaio. 9 gennaio, te scordato. Ah. Sì, perché dopo ci sarà anche questa uscita molto liberata, chiamiamola così, esatto, perché in risposta sempre ai brani della playlist da 5K noi abbiamo risposto con un altro brano che personalmente a me piace troppo perché io lo canto come se fosse la sigla di cosa, come si chiama, il boss delle cerimonie. Lo canto alla stessa maniera, mi dispiace, però io lo canto alla stessa maniera perché non sono in grado, ovviamente, però mi piace un sacco, devo essere sincera. Dopo, infatti, ci ascolteremo dopo, più avanti, 9 maggio di Liberato, ovviamente. Insomma, ve l'avevamo detto che nel luogo della narrazione in cui ci stanno le peripezie di eroi e antieroi, noi abbiamo anche piazzato Gali con Happy Days, ma piazziamo anche, insomma, un'altra band che... Mi accompagna da che ho iniziato a capire qualcosa di francese, quindi voi direste mai, ed è vero. Però, grandissima band, amo ogni lavoro che hanno sfornato, loro sono la Femme. E secondo me, diciamo che quando ascolti la Femme a Bologna, Bologna è una Berlino che non ce l'ha fatta. Quindi... Ma poi, cioè, nel senso, adesso oggettivamente, no? Io sono stata a Berlino e ho vissuto ormai 4 anni e mezzo a Bologna, no? Quando sono arrivata a Berlino, cioè, nel senso, sembra tutta una grande bolognina, se devo essere sincera. Quindi, secondo me, no. Cioè, XM non è che è il centro sociale più becero di Berlino, se lo a Berlino. Ma davvero? Ogni volta che entro a XM io mi sento berlinese. No, grazie allo zoo di Berlino. Bellissimo. Dello zoo di Bologna poi, fantastico. No, bellissimo. Bellissimo. Effettivamente sembra un po', te l'ho detto, un... A proposito di Berlino, tra l'altro, stavo pensando che il primo album della Fem, se non sbaglio, si chiama Psychotropical Berlin, quindi figurati, è proprio tutto un... è tutto legato, ci abbiamo pensato, l'abbiamo studiata questa puntata. Comunque, al di là... Molto studiata e pensata, in realtà ce l'hanno servita su un piatto d'argento, perché dove c'è polemica c'è Bosco. Comunque, tra l'altro, qua si potrebbe anche aprire una polemica sui taxisti, su Uber, Uber versus taxisti statali, perché comunque il brano che ci andiamo ad ascoltare è un titolo molto, molto evocativo. Mm. E io me lo andrei anche ad ascoltare, va? Che dici? Ma sì, ce l'andiamo ad ascoltare dirette, belle, papali papali, è Anti-Taxi di La Femme, che vi auguro di ascoltare dal vivo, perché merita, merita, merita. We'll be right back. sono successe cose molto strane durante questo brano, dal ballare, dal suonare la, la penna sulla mano, a remixarci sopra i CCCP. Ebbene sì, facciamo anche questo quando non ci ascoltate. E comunque sì, a proposito di remix, di cose mischiette, di campionamenti, eccetera, eccetera, prima abbiamo ascoltato appunto Gali. Adesso ci andremo ad ascoltare il 9 maggio, però la cosa che mi interessava, di cui mi premeva parlare, visto che abbiamo avuto questi due artisti e l'intermezzo di La Femme, che comunque è stato molto interessante e molto ballereccio, danzereccio, volevo aprire una piccola parentesi sulle modalità di marketing di questi personaggi. Perché Giuliona, cara la mia Giuliona, dimmi Fiore. Allora, come tu ben sai, come abbiamo già speso grandissime parole, Liberato è tutto un grande punto di domanda. Qualcuno dice che siano anche Nico e i suoi desideri. Se non li conoscete, andatevi a cercare su internet, è qualcosa di assolutamente magico. Qualcuno dice che sia Mogol, qualcuno dice che sia addirittura Giuliona Liberato, però non lo sapremo mai, probabilmente non lo scopriremo mai. Detto questo, no, mi premeva parlare un attimo perché Gali ha fatto una cosa interessante per quanto riguarda la sua promozione dei brani. Vedi, nel 14 ottobre 2016 praticamente ha pubblicato su Spotify il suo singolo di debutto che si intitola Ninna Nanna, e praticamente stabilisce nuovi record di streaming su Spotify. Perché? Che cosa ha fatto? Non ha messo in vendita sui siti, sui negozi digitali il brano, ma lo ha messo in vendita soltanto nei negozi, cioè praticamente mo non mi viene la parola, nei negozi concreti di dischi, ecco, va bene. Ok. Ha fatto questa cosa, tant'è che praticamente lui è stato praticamente certificato triplo disco di platino dopo pochissimo dalla FIMI, perché ha vinto oltre 150.000 copie in pochissimo tempo, tra l'altro. Cioè, è strana questa cosa che comunque un artista che nasce in quest'era decida di eliminare dalla proprio, diciamo, dai propri metodi di diffusione della propria musica, e decida di eliminare la vendita nei negozi online. Tu cosa ne pensi? Che è ovviamente una grandissima strategia di marketing, è una trovata geniale. Ha fatto il contrario di quello che fecero i Radiohead con la distribuzione gratuita, non mi ricordo di quale disco, però insomma, loro, come abbiamo detto anche in passato in una puntata di Bosco, sono maestri in tutto questo. Sì. È molto particolare, lui è una personalità molto particolare, comunque, e tra l'altro è uno dei pochi, vabbè, il rap ha per ontologia una vocazione particolare, che è una vocazione di ribellione, di narrazione, di racconto, però diciamo che attraverso Gali si vive un duplice dramma, che è quello appunto di vivere in un posto difficile, che è quello della periferia, di venire da un posto difficile. Penso sia tunisino, ora non mi ricordo bene. Sì, però è di cioè vive a Milano. Esatto, Tunisia-Milano, due mondi totalmente discratici, c'è un pesante iato tra questi due mondi, e quindi lui lo sa mettere molto bene in musica. Quindi forse diciamo che ha avuto molta grip questa cosa, perché si è parlato tanto del dramma comunque del posto che lasci, del posto in cui approdi, dell'immigrazione, diciamo. Ha avuto questo quid, questa grande grip che è comunque stata fonte di interesse. È una personalità disincantata, e anche questo fa, insomma, tanto. No, ha anche un'aura molto di eleganza rispetto ai rapper e ai trappisti. Non so se si dica trappisti, però li chiamo trappisti. Rispetto ai rapper e a coloro che fanno trap in Italia. Non so, c'è appunto, secondo me, l'eleganza nel suo modo di fare musica, o comunque nella produzione della musica che c'è all'interno dei suoi brani, che può essere sua come può essere di qualcun altro, lega tantissimo queste origini tunisine alle origini assolutamente italiane, ovviamente, per cui era interessante questa cosa. Come del resto andiamo verso invece uno sperimentatore totale, che è appunto Liberato, che è arrivato con Liberato 1, che era un remix, un campionamento di c'era dentro anche Mia, se non sbaglio, dentro a quel brano lì, che è entrato e nel suo più assoluto non essere nessuno, capito, ha stravolto completamente e ha fatto parlare di sé per mesi, no un mese, mesi, capito? Quindi diciamo che anche i giovani d'oggi stanno cercando soluzioni migliori. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare 9 maggio, t'ho scordato, di Liberato, e poi torniamo con Bosco. Nove maggio, mi scurtata, t'hanno vista che tornava insieme a nat. Non mi sente, non mi pensa, tengo cuore che non può portare pazienza. Dall'anima c'è un sospiro, fanno dire tu, e non mi fido, non ci pezza mai, pensa sto fatto, tu non mi grida. Arabi in mano e via, cava caccia una lacrima, c'è un respiro, fanno dire tu, e non mi fido, non ci pezza mai, pensa sto fatto, tu non mi grida. 9 maggio, mi scordata. T'hanno vista che tornava insieme a nat. Non mi sente, non mi pensa, tengo cuore che non può portare pazienza. 9 maggio, mi scordata. T'hanno vista che tornava insieme a nat. Non mi sente, non mi pensa, tengo cuore che non può portare pazienza. Nove maggio, nove maggio, nove maggio, te scordata, tanto visto che tornavo insieme a te. Non mi sento, non mi pensa, tengo d'oro che non può portare pazienza. 9 maggio, ha blocchi e vita, capo trasi dall'anima, c'è un sospiro, fanno dire tu, in un po' fino, non c'è pazza mai, non sa sto fatto, tu non mi crede, tu non mi crede. Maggio di Liberato, che a me è piaciuta tantissimo, a Giulio non un po' meno, ma fa niente, siamo diverse e per questo ci piacciamo tantissimo. Comunque sta per concludersi la nostra terza mezz'ora di Bosco, e andiamo, appunto, rimaniamo comunque in tema rap, ma parliamo di un grande della musica rap, che è appunto Eminem, che è tornato il 15 dicembre, se non sbaglio, sì, il 15 dicembre di questo 2017, che ormai è terminato, è tornato con un nuovo album che si intitola Revival. Il brano praticamente l'album ha debuttato praticamente subito sulla vetta di Billboard, praticamente, E tra l'altro il brano che ci stiamo per andare ad ascoltare si intitola Untouchable ed è, se non sbaglio, il secondo singolo estratto. Boh. Comunque è uscito l'8 dicembre 2017 e praticamente viene resa disponibile soltanto a livello digitale questo brano qui. E mi piaceva, comunque mi interessava parlare un attimino di questo grande ritorno, perché comunque non si sentiva, cioè, se non sbaglio, non rilasciava da tantissimo tempo dei brani Eminem. Sì, un sacco, mi pare. Io non l'ho mai seguito molto. Mi ha sempre affascinato M in M, Mother Marshall III, bello. Dato che io e le etimologie e i nomi abbiamo una never ending story, però insomma io me l'ascolterò la prima volta con voi, quindi possiamo partire, possiamo andare. Sì, no, volevo semplicemente dire che questo disco praticamente è pieno di collaborazioni, cioè Beyoncé, Ed Sheeran, Alicia Keys, X Ambassador, Kehlani, ce ne sono, Pink, è pienissimo, sono 19 brani tutti nuovi, dove praticamente penso abbia vomitato nuovi brani a sto punto, perché ne ha scritti 19 tutti di botto e ha fatto uscire un album. Comunque ci andiamo ad ascoltare il singolo rilasciato, che è appunto Untouchable di Eminem. We ain't gonna lie to you, black boy, black boy. We don't like the sight of you. Pull up on the side of you, window roll down, profile. Then we wonder why we see this side of you. Probably coming from the dope house. We could let you slide, but your tail light is blue. Out. We know you're hiding that Heidi Klum on you. Another drug charge, homie, it's back inside for you. And just in case the chase might is, so we got the trident, two pistols right at you. We'd be delighted to unload it in your back and walk up and lay that taser on the side of you. Fucked up, but what the fuck am I to do? I keep telling myself, keep doing like you're doing. No matter how many lives you ruin, it's for the red, white, and blue. Time to go find a new one and split his head right in two. No one's ever indicted you, why? Cause you're a white boy, you're a rock star. You're on the top of the truth, gonna come in hot to live. White boy, in your cop car. I don't listen to it, cause my head is like a sieve. White boy, you're untouchable. Nobody can tell me shit, cause I'm a black boy, we don't get your culture in. We don't care what our government's done to fuck you over, man. Don't tell us your attitude's a result of that. Roll the gas when you get the chip on your shoulder at. Why you kicking that soda can? Pull your pants up, we bout to roll a band. Throw your ass in the van car. You don't have to know our plans or what our intentions are. Our cars are close to our chest, you better show your hands. And put our minds more at ease. You get shot in the thyroid, comply or die, boy. We're fighting a crime war, here come the swine. Trying to clean up the streets from all these minorities. That's what we call them pigsties for. They're like eyesores to police. Talk to like you're just a piece of trash. Feels like we're stuck in a time warp to me. As I kick these facts and get these mixed reactions, as this beat backspins, it's like we're drifting back in to the 60s. Having black skin is risky, cause this keeps happening. Throughout history, African Americans have been treated like shit, and I admit there have been times where it's been embarrassing to be a white boy, you're a rock star. White boy, in your cop car. But I don't listen to it, cause my head is like a sieve. White boy, you're untouchable. Nobody can tell me shit, cause I'm a rock star. Seems like the average lifespan of a white man is more than twice than a black lifespan. I wonder sometimes if it has a price scanner. I feel like checking out on life can escape this circumstance. I'd rather hear him say die inward than die outward. Ninja, now it's better disguised banter, but that's life. Strapped cause we're strapped financially and can't find answers. We're applying, but McDonald's seems to be the only franchise that'll hire. So how can we have higher standards? As Dallas overshadows the battle for Black Lives Matter. We fight back with violence, but acts like batter. Black guys on the movement, which makes Black Lives Matter. At cops, and cops matter, that's why it's at a stalemate and can't arrive at a compromise, so it's black ops. I wonder if we hire more black cops, the crap stops. The block is our backyard's office, it's not the crack spot. Call the attack dogs off of us, man, you always act all pissed off at us at a traffic stop. Bad cops, fuck it up for the good cops. And man, stop sending white cops in the black neighborhoods who ain't acclimated to them like that's the way to do it. Who seen some fucking videos of rappers waving guns and know nobody black, so they act afraid of us. And that's racism, the fear that a black face gives them. A subconscious racist. Wait, why are there black neighborhoods? Cause America segregated us, designated us to an area, separated us, sectionated us when we tear it up. The only time attention's paid to us, and education sucks, and every day's another Freddie Gray for us. A levy breaks a fuzz. Why is it they treat us like violent? We just want a safe environment for our kids, but can't escape the sirens. Don't take a scientist to see our violent nature lies in the poverty that we face, or the crime rate the highest in the lowest classes. It's like a razor wire fence we're trapped in. These racial biases that plague our society, which makes our anxiety levels raise every time we see a devil's face. Lions, tigers, and bears, oh my. It's more like billy clubs and gats, and we really love it when you think we're guilty cause we're black. But you kill each other, facts, you peel each other's caps for silly stuff like hats. Single mothers struggling through substance abuse, while people with nothing to lose shoot each other for shoes. Fuck your Republican views, pull ourselves up by our bootstraps. What the fuck are the boots? And streets act as a narrator, don't gotta read comics or be that into characters. Just to see that, just to be black, you better be strapped with a derringer or be Captain America like Steve Rogers. Cause no one oversees these cops, and all we see is some beat charges. We done seen them beat Rodney King unconscious and got off, so we don't need all you crooked police officers' peace offerings. Just keep marching till we reach Congress. But they're gonna say you're trying to take an irrational stance if you try to slander the flag. But somebody has to be the sacrificial lamb, so they call it a Kaepernick tantrum if you don't stand for the national anthem. We raise it, you better praise it, or you'll be made to feel like a traitor will treat you like Rodney Dangerfield, home of the bravest still, Racistville. So this whole nation feels like a plantation field in a country that claims that its foundation was based on United States ideals that had its natives killed. Got you singing this star-spangled spiel to a piece of cloth that represents a land of the free that made people slaves to build. We'll be right back. E questi erano i Tame Impala con The Less I Know The Better. Tame Impala, ancora non ho capito molto bene, se devo essere sincera. Come li pronunci tu, Giuliana? Dovrebbe essere Tame Impala. E soprattutto vorrei consigliare ai nostri carissimi ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori, di guardarsi, ovviamente maggiorenni, quindi più 18, di guardarsi il video di questo pezzo. Perché esiste la versione non censurata sul tubo ed è un video piuttosto frizzantino. Ebbene sì, è molto gorilloso, che riprende anche, diciamo, la favola di... come si chiamava quel gorilla che sale sull'Empire State Building? Tipo King Kong? Brava! Eccola! Come complicarsi la vita in solo due semplicissime mosse. Oh, non mi ricordavo King Kong, ma mi ricordavo Gorilla Gigante che sale sull'Empire State Building. Cioè, nel senso, io mi ricordavo la trama, non il nome. Alla fine, diciamo che il concetto è arrivato nella mia testa, capito? Certo, certo, io comprendo benissimo. Non ti vedo molto convinta, ma fa niente. In questa ultima mezz'ora di Bosco noi adesso andremo a passare dei pezzi che ci fanno saltare sulla sedia, perché siamo molto contente e vogliamo salutarvi in una maniera molto felice, e torneremo sicuramente martedì prossimo, che non so che numero sarà, ma noi ci saremo ovviamente. Detto questo, in questa nostra ultima mezz'ora di Bosco, di questo 9 gennaio che è diventato 9 maggio ormai, fa niente, noi siamo già verso le vacanze estive praticamente, e noi adesso andiamo ad ascoltare quelli che venivano coverizzati dagli Arctic Monkeys. Esattamente, io sono, lo devo dire? Sì. Ma devo proprio? Sì. Beh, ci ascoltiamo forse il brano più noto degli Strokes, che è Reptilia. Un brano che piace molto, insomma, agli appassionati di Harry Potter, per ovvi motivi. Vero, nel senso che, oh no, c'è un sacco Reptilia, mi fa pensare al Serpentese il titolo di questa canzone. E poi è una bellissima canzone, meravigliosa, in un inconfondibile stile Strokes, perché tecnicamente non saranno un granché, ma cazzo che poetica. Bene, bene, direi The Strokes non saranno un granché, ma cazzo che poetica. È proprio, è orecchiabile, cioè nel senso è proprio una pura poesia, va bene. A proposito di poetica, noi avremmo anche voluto inserire, tra l'altro, nella nostra playlist il buon Cesarello Cremoninello, ma non l'abbiamo fatto perché volevamo mantenere un contegno, e sicuramente avremmo messo l'open mic e avremmo iniziato a cantare comunque. E soprattutto vogliamo ancora un posto fisso, che è irraggiungibile, ma non vogliamo essere licenziati. Il del posto fisso. Già con Aprangiolini ci siamo andate vicino, l'ultima puntata della scorsa stagione. Limitiamo i danni. Esatto, esatto, esatto. Bene, noi ci andiamo ad ascoltare appunto Reptilia degli Strokes. Bottiglia degli Strokes, un grande pezzo, noi ce la siamo ballata tutta, vero Giuliana? Assolutamente, a furia di muovere la testa mi è venuta la cervicale. Quindi perché noi ormai siamo vecchie comunque. Vecchie per tutta questa roba qui, queste playlist, questo link, questi post in cui andare a ballare. No, no, no, io mi rifiuto, io voglio solo mangiare all'ultimo dell'anno, cosa che ho fatto effettivamente. Brava, brava. No, ma a parte il cenone di... parlando appunto di ultimo dell'anno e di questo capodanno da 5.000 euro, ricordiamo che comunque non solo Calcutta si è prodigato e ha fatto una fatica immensa nello stilare appunto una playlist da mettere su Spotify, ma la stessa richiesta è stata fatta a tre diciamo luoghi di concerti bolognesi, che sono appunto il Covo Club, l'Estragon e il Locomotive, e ai quali tra l'altro noi ci siamo palesemente ispirati durante lo stilema di questa playlist. Bellissimo. Grazie. Lo so, è stata una lezione di italiano non indifferente. Comunque, a parte questo, noi ovviamente ci siamo palesemente ispirati a questi club. Non siamo andati a ballare perché giustamente eravamo troppo occupate a riempirci di cotechino e lenticchie, che tra l'altro io non ho mangiato, ma ti posso dire che alle 3 di notte avevo una fame boia che mi sono mangiata le salsicce avanzate. Sei molto brava, Ilaria. Il tuo stomaco ti ringrazierà con la vecchiaia. A proposito di vecchiaia, vi proponiamo poi un pezzo che piace a grandi e a piccini, dai cinni passando per i Regaz e finendo per i Vets. Ed è un pezzo, forse uno dei pezzi di chiusura di tutte le rockatiche d'Italia. E, insomma, un gran pezzo, ho detto pezzo 8.000 volte, quindi direi di annunciare questo pezzo. Ed è Psycho Killer in Talking Heads, e vi invito, cari ascoltatori, a scoprire la discografia di Talking Heads, perché loro non hanno fatto solo Psycho Killer. è verissimo, questo è probabilmente appunto il brano più conosciuto dei Talking Heads, però sono ovviamente una band che merita tantissimo, e come loro meritano anche gli Ukulele Orchestra of Great Britain, che hanno fatto una cover di questo brano che secondo me è, penso, la miglior cover di questo brano esistente. Però vabbè, se volete andarvela ad ascoltare, è carina, è divertente, è comica, e magari se l'ascoltate almeno una volta al giorno, la vostra giornata potrebbe assolutamente migliorare. Detto questo, ce l'andiamo ad ascoltare, Psycho Killer, Talking Heads. Psycho Killer, Talking Heads, che pezzone. Classicone. Classicone, che pezzone, ci è piaciutone. E siamo giunte al termine, cara la mia Giuliona, di questa bellissima prima puntata di Bosco. Saranno felici i nostri carissimi ascoltatori, noi un po' meno perché pensavo durasse di più. Ormai noi siamo, le due ore per noi non sono niente, capito? Il tempo passa. Sai, c'è questa teoria, Giuliona, per cui praticamente quando ovviamente sei più piccolo il tempo ti passa più lentamente. Quando hai 2 anni, un anno, capito? Equivale a metà della tua vita, quindi per te è un arco di tempo è immenso e più vai avanti, ovviamente un anno inizia a diventare una particella sempre più piccola dell'arco della tua età. Bene, per noi queste 2 ore ormai non sono niente, noi vorremmo fare un 24 ore, un teleton di Bosco, ci piacerebbe fare questa cosa, ma non ci viene permesso purtroppo. Ma questa cosa l'hai letta su Focus, vero? Mi pare di sì, ma mi sa che ho visto pure un video. Meraviglioso. Sì, perché io mi informo ogni tanto sulle cose che, di cui non dovrei informarmi, mi informo, capito? Sulle altre cose che magari dovrebbero interessarmi per il mio bene, capito? Invece non lo faccio. Boh, secondo te, perché? Perché la vita è un pendolo che oscilla tra la noia e il dolore. Bene, non... fantastico. Ecco. Così diceva un vecchio, mi pare, che ha, con un nome impronunciabile, che parla di volontà di vivere, ma non lo so perché anch'io... Allora, guarda, io ti dirò che per l'esame di semiotica ho dovuto studiare un saggio di Eric Landonsky, che si basava tutto sul rischio, no? Nell'interazione interpersonale, capito? E se non si rischia, appunto, si rischia di cadere nella non significanza, ok? E la non significanza corrisponde appunto con il dolore e con la noia. Sostanzialmente diceva anche il signor Gramsci, te lo ricordi? Diceva: io odio l'indifferente. Era un po' la stessa cosa. Chi non risica non rosica, queste robe qui, insomma. Non esistono più le mezze stagioni, eccetera, eccetera, eccetera. Mediaset Virtus. Esatto. De gustibus non disputandum est, e appunto per questo noi abbiamo deciso di chiudere questa puntata di Bosco con un brano che potevamo fare la chiusura con Psycho Killer, però no, a noi non ci piace fare queste cose ovvie, quindi chiudiamo con un brano che di solito si mette in apertura, vero Giuliona? Assolutamente sì, per noi mutate mutandis, le cose stanno sempre al contrario. Oggi come le mutande? E vogliamo ricordarvi così, il primo settembre a Empoli, Empoli è l'unica città della Toscana che esiste per lo spelling, nel senso che tutte le altre città sono città meravigliose da visitare, Empoli invece esiste solo in virtù della E di Empoli. Vabbè, ti dimentichi anche di Domodossola, che nessuno pensava esistesse, ma in realtà esiste. Certo, non lo metto in dubbio. Fatto sta che la E di Empoli è uno dei, insomma, attrattivi principali di quella città, insieme a Ferdinand, che hanno suonato lo scorso primo settembre. Pensa a te, questi gruppi che scelgono mete di merda, perché l'anno scorso avevano scelto i Placebo, avevano scelto Barolo, capito? E poi invece i mete di merda non nel senso che sono brutte, ma nel senso che spesso e volentieri sono irraggiungibili, capito? Quindi, però è anche carino che comunque Franz Ferdinand siano andati a suonare ad Empoli, non credi Giuliona? Cosa avranno trovato in Empoli, oltre alla E di Empoli? Io lo so cosa hanno trovato in Empoli, perché è quello che ho trovato anch'io, ma comunque io passerei a lanciare il brano. Sì, ci sto, vedo Giuliana che fa dei segni che sono molto eloquenti, bene, noi andiamo appunto con questo ultimo brano, vi salutiamo, ci vediamo martedì prossimo, ci sentiamo martedì prossimo. Perché non è un bel affare vederci, soprattutto. Infatti, direi che questo è un periodo in cui le nostre facce magari potrebbero essere ristrutturate prima ancora di farsi vedere, però noi ci vediamo l'un l'altra e vi possiamo dire che non è uno spettacolo granché. Fine. Bene. No, ma bello, non lo volevo solo chiudere con granché. Comunque niente. Ci sentiamo martedì prossimo. Io sono Ilona. Io sono Giuliona. E questo era Bosco. Buon anno. Take me out, Franz Ferdinand.